Dagli incontri nascono sempre nuovi stimoli, nuove idee. Ma quando ad incontrarsi sono dei musicisti, ecco che nasce qualcosa di profondamente diverso. Qualcosa che rimane e aggiunge una nuova nota sul pentagramma. L'esperienza dei magnifici e di destini incrociati in un nuovo programma, nel quale, attraverso i loro incontri, i grandi della musica danno vita a sorprendenti connessioni per creare nuovi mondi musicali. Radio 24 presenta I Magnifici Destini, un programma di Giacomo Zito. Nel reparto intoccabili, dove la vita ci sembra enorme, perché non cerca più e non chiede, perché non crede più e non dorme, non dorme. Scrivere e cantare canzoni può non essere semplice se ti chiami De André ma di nome fai Cristiano e non Fabrizio. Ed essere figlio di Vittorio Gassman avrà forse aperto qualche porta ad Alessandro, ma poi gli ci sono voluti anni per imporre le sue qualità di attore. Non sono soli Cristiano e Alessandro, e le storie come le loro si moltiplicano in Italia e all'estero, tutte accomunate dal filo rosso del sospetto e del detto «mi manda papà». C'è chi pensa che essere figlio d'arte sappia di raccomandazione, chi crede sia troppo comodo, chi aspetta semplicemente al varco la prova del 9 e chi ancora, come Michele Placido, si augura che i suoi figli seguano le sue orme. Però capisco anche che chi fa, sta in una famiglia di farmacisti può fare il farmacista, chi sta in una famiglia dei contadini no, vogliono fare adesso, i contadini non lo fa più nessuno. È curioso questa cosa, che adesso quando un figlio appunto di un attore fa l'attore, tutti quanti fa l'attore. Una volta era normale, una volta i figli degli attori facevano gli attori, nella compagnia di De Filippo, Ray Giuffrè, le grandi famiglie di attori, perché si pensa alla televisione. In verità, grazie a Dio, anche i miei figli vogliono continuare un po' sull'idea del padre, cioè di fare il teatro e poi si vedrà. That you dare to dream really do come true. E lei chi è? E chi sono io? Io sono il grande potente mago di Oz. Su, serio? Certo, non sì. Posso crederci. Invece la verità, qui non esiste nessun altro mago oltre a me. Brutto imbroglione. Brutto? Sì, imbroglione è la parola giusta. Sono un imbroglione. Lei è un uomo molto cattivo. Essere un figlio d'arte può causare qualche incomprensione. E se poi a essere famosi i genitori sono due e si chiamano Judy Garland, la mitica Dorothy del Mago di Oz, e Vincente Minnelli, regista due volte premi Oscar, hai la certezza che un po' di polvere di quelle stesse stelle ti spetti di diritto. Che almeno una quota del talento fissato nei geni dei tuoi genitori debba per forza esserti stata trasmessa, anche se poi non sempre tutto scorre liscio come nelle premesse. Liza Minnelli e il suo magnifico destino di figlia d'arte e poi di cantante, attrice, ballerina e regina dello show business è la prova vivente di tutto questo. La città che non dorme mai, canta la Minnelli nel pezzo che più l'ha resa celebre. New York, la città dove cresce agli inizi degli anni 50 insieme alla madre, reduce entrambe dalla dolorosa separazione tra quest'ultima e Vincente Minnelli. New York, il luogo dove va a scuola e coltiva le amicizie più importanti, future star del cinema e della musica, quali Mia Farrow, Candice Bergen, Natalie Cole e Barbara Streisand, alle quali resterà legata in amicizia e collaborazione per il resto della sua vita. Eppure Liza, in quegli anni un adolescente in cerca delle prime affermazioni artistiche, percepisce che l'ingombrante ombra di una madre famosa ne può limitare la crescita. Come on, fellas, it's up to you. Give me a great big smile, please. Okay, Liza, what will we do? Say cheese! Cheese! Say please! Please! Please! How am I doing, Mama? Oh, fine, Liza, keep going! Good on a happy. Per riequilibrare dinamiche familiari difficili, Liza trova spesso rifugio nelle sincere amicizie newyorkesi, alcune di esse decisive per la sua imminente esplosione. Tra queste, la più importante e proficua è quella con il compositore di origini austriache Marvin Hamlisch, uno straordinario musicista capace di vincere tutti e quattro i principali premi americani assegnati per meriti artistici e per questo insignito assieme a sole altre 11 persone sul pianeta del titolo di EGOTS. The winner is Marvin Hamlisch for The Sting. I'm very happy. And I really wanted this. EGOTS, no, non è una parolaccia, ma è la tipica impellenza americana di utilizzare un acronimo per sintetizzare una o più definizioni. In questo caso, indica una lista di persone in grado di vincere nel corso della carriera almeno una volta uno dei quattro premi più importanti dello show business statunitense e per estensione del mondo. E sta per Emmy, le produzioni televisive. G sta per Grammy, quelle musicali. O per l'Oscar hollywoodiano. E infine T per Tony, il premio per il teatro. Da qualcuno definiti il grande slam dello spettacolo, i quattro award sono stati vinti nell'ultimo mezzo secolo solo da 11 artisti. E sono talmente pochi che vale la pena citarli tutti. Gli attori John Gielgud, Helen Hay, Audrey Hepburn, Rita Moreno e Whoopi Goldberg. I compositori Richard Rodgers e Jonathan Tunick. I registi e produttori Mel Brooks, Mike Nichols e Scott Rudin. Marvin Hamlisch, in carriera, non si fa mancare nulla e vince anche un premio Pulitzer, oltre ad 8 nomination e altri 3 Oscar, 2 per la migliore colonna sonora e 1 per la migliore canzone. La struggente The Way We Are, tratta dall'omonimo film con Robert Redford e Barbara Streisand. Can it be? Negli anni 50, la Juilliard School of Music di New York, una delle più importanti scuole di arti, musica e spettacolo del mondo, sta vivendo un momento di grande splendore, sotto la direzione di William Schumann. Ed è qui che Marvin Hamlisch, newyorkese nato da una famiglia austriaca di origini ebree, è iscritto dalla protettiva e orgogliosa madre. Lui, piccolo prodigio, a soli 7 anni diviene il più giovane allievo della Juilliard di tutti i tempi. La cosa davvero fantastica per me alla Juilliard fu che non avrei per niente dovuto suonare Bach o Beethoven dalla mattina alla sera, ma che invece avrei potuto suonare Good Night Irene in tutte le variazioni e le chiavi possibili. Marvin è ancora poco più di un adolescente quando nelle sale della Juilliard scrive la sua prima canzone, The Traveling Life, un pezzo che decide di fare incidere a una cara amica di soli 2 anni più giovane, la 17enne promessa del pop Liza Minnelli. Una compagna di studi con la quale ha instaurato una forte empatia umana e artistica e che frequenta spesso anche fuori dalla scuola. 2 anni dopo è il 1964 e la Capitol Records decide di investire sulla talentuosa Liza per realizzare il suo album d'esordio, Liza Liza. Minnelli si sente sola, spaesata in questa sua prima esperienza solista senza la guida della madre. Ed è a Marvin che si rivolge affinché le dia una mano come amico, ma anche come musicista. L'unica richiesta contrattuale con la Capitol, dalla quale non prescinde, è la presenza di Hamlisch per la supervisione degli arrangiamenti e l'inserimento del brano realizzato insieme, The Traveling Life, nella tracklist del disco. I like the traveling life, yes, I like to get around. I found that the life for me is bound to be so free and easy, easy and free, no man. Marvin Hamlisch, destinato a una carriera che ha pochi confronti nel panorama musicale statunitense, per Liza è qualcosa di più di un semplice amico del quale più volte nel corso della carriera riconoscerà lo straordinario talento. È un confidente, un consulente, un consigliere e certamente anche una spalla alla quale appoggiarsi negli anni di un'adolescenza non priva di ombre inquietanti. Da qualche tempo sua madre Judy, incapace di gestire il proprio patrimonio dopo il divorzio da Vincent Minnelli, si trova presto senza un soldo e vittima di una forte depressione curata con massicce dosi di psicofarmaci e alcol. Eliza stessa a ricordare quel drammatico periodo. Quando mia madre doveva rinnovare il book fotografico per gli agenti, mi mandava sempre in giro per le case degli amici a mendicare in prestito qualche oggetto chic d'arredamento per poter allestire in casa un angolino degno della sua fama. Oppure la dovevo aiutare a scappare da certi alberghi di lusso dove era costretta ad alloggiare per continuare ad alimentare la sua condizione di star, ma che ormai non poteva più permettersi. Questa è la spietatezza di Hollywood. L'idea davvero sbagliata che la gente aveva di mia madre è che fosse una donna molto infelice. Ricordo un giorno a scuola, ero una ragazzina, qualcuno disse che Judy Garland era un'alcolizzata, una fallita. Tornai a casa piangendo e Judy mi chiese cosa non andasse. Glielo dissi e lei rispose: la sai una cosa? Lascia che ognuno pensi e dica ciò che gli pare. Noi ora andiamo a farci un hamburger. Vivevamo a Los Angeles, ma lei era originaria del Michigan dopo tutto, gente molto pratica e tosta. The sun shines best on my mammy, my mammy. My heartstrings are tangled around Alabama. Liza e Marvin sono inseparabili in questo momento difficile. Lei gli chiede di sedersi al piano, proprio a casa della madre, per suonare accompagnato dalla sua voce nel tentativo di consolare Judy e provare a tenerla lontana dalle tentazioni della bottiglia. È preoccupata per questa sua madre importante e fragile, per quest'ombra che si fa sempre più sottile. Ma nonostante il carattere tosto e l'amore incondizionato della figlia, la vita della Garland corre presto verso il precipizio dell'autodistruzione. A soli 47 anni muore a Londra e ancora non è noto se per errore o per scelta, ma ufficialmente a causa di un errato dosaggio di psicofarmaci. Eppure, nonostante il dramma e il lutto, la perdita insostituibile del suo principale mentore, l'anatroccolo Liza, spesso attaccata dalla critica scandalistica per la scarsa avvenenza, il naso a patata, le brutte gambe e le caviglie grosse, pare scrollarsi di dosso un'ombra forse troppo ingombrante. E inizia così un percorso che la porterà a divenire il cigno che un giorno alzerà al cielo un premio Oscar. Da mia madre Judy ho imparato l'arte del sorridere cantando e ballando, mentre da mio padre Vincent quella di sognare a colori. Lui alla fine è stato un maestro del Technicolor e io fin da bambina potevo girare liberamente sui suoi set. Beh, da entrambi posso dire di aver appreso anche l'arte del saper stare in scena, di fronte a una telecamera o sulle assi di un palcoscenico. Del resto, fin da quando ero piccola, a casa nostra era spesso frequentata da mostri sacri dello show business. Attori del calibro di Spencer Tracy, ad esempio, dal quale ho imparato più di ogni altro a recitare. Ma incontravo di frequente anche Fred Astaire e Gene Kelly, tra i più grandi ballerini di sempre. Erano molto amici dei miei e ne seguivamo spesso gli show in giro per l'America. Beh, è stato osservando Fred dietro le quinte che ho imparato a ballare. Per lui ero come una nipotina ed è sempre stato prodigo di consigli. Hello, how are you? How's the folks? What's new? I'm great. That's good. Knock wood. Well, well, that's life. What do you know? How's a wife? Gonna fly. Oh my. Ta-ta. Olive oil. Goodbye. Nel pezzo che abbiamo ascoltato, Astaire e Gene Kelly cantano e ballano The Babbitt and the Broomhead, brano scritto per loro da George e Ira Gershwin, quest'ultimo padrino della stessa Minnelli. Un giro di amicizie, quelle familiari e quelle personali, che contribuisce in maniera significativa a formare la personalità artistica di Liza. Assieme a Marvin e al giro di amici della Juilliard, prova ad avere la vita di una qualunque ragazza alla fine degli anni 60. E talvolta si ritrova a cantare con loro fino a notte fonda, in qualche locale off della città, di fronte a sparuti e meravigliati clienti occasionali. Ma nonostante gli anni 70 e il rock siano ormai alle porte, Liza non si sente attratta dalla musica pop, come sarebbe più naturale alla sua età. Non avverte il richiamo esaltante che proprio in quegli anni si sta diffondendo in America e in Inghilterra. I suoi riferimenti sono Gershwin e Carmichael, invece che i Beach Boys o i Beatles. Non sente neanche il bisogno di prendere le distanze in qualche modo dalle figure così ingombranti dei genitori, da cui anzi sembra fortemente condizionata. Liza incarna piuttosto il ritorno alla tradizione del vocalismo classico. Ed è lei, insieme a Barbara Streisand, a ridare vigore alla figura della grande interprete. See that all the places I gotta play, all the things that I gotta be at. Come on, Paula, what do you say? Some people can be content playing bingo and paying rent. That's perfect for some people, for some Trump people to be. Liza Minnelli incarna anche la quintessenza del musical americano. Da qualche anno, infatti, un altro meraviglioso e cruciale incontro della sua vita, dopo quello con Marvin Hamlisch, è avvenuto dietro le quinte dei teatri di Broadway. Anzi, due incontri. Quello con un musicista geniale e poliedrico, John Kander, e un paroliere ispirato, Fred Ebb. Un binomio tipico della storia della musica. Due grandi musicisti, due amici, che Marvin Hamlisch presenta Liza a metà degli anni 60. Tutto ciò che posso dire è che lavorare con loro è sempre stato molto divertente. Sapete, John Kander e Fred Ebb scrivevano come un team, lavorando come matti per mettere a punto le canzoni che scrivevano per Cita Rivera e Liza Minnelli. Lavorare con loro era magnifico, eravamo davvero molto amici. In particolare Fred Ebb era un uomo straordinariamente intelligente e anche molto divertente, specialmente quando si faceva accompagnare al piano da John per cantare qualche loro pezzo. Aveva un senso dello humor davvero caustico, ma ciò che fecero per Liza è irripetibile. Loro la capivano perfettamente e sapevano sfruttare al meglio tutte le sue immense qualità. Marvin Hamlisch continuerà a collaborare e consigliare Liza per tutto il resto della sua vita, che si è recentemente conclusa il 6 agosto 2012. Marvin ha conquistato ogni premio possibile nel suo campo e composto indimenticabili atmosfere di capolavori quali La Stangata, Come Eravamo e Chorus Line, tra le molte. Il giorno dell'addio a Los Angeles, Liza lo piange al pari di un membro della famiglia. Oggi ho perso il mio primo e migliore amico di tutta una vita e tutti noi abbiamo perduto uno splendido, irripetibile talento. I magnifici destini. I'm gonna bruise my knees and roll my stockings down. And all that jazz. Start the car, I know a whoopee spot where the gin is cold but the piano's hot. It's just a noisy hall where there's a nightly brawl. And all that jazz. Mentre nei primi anni 60 una giovanissima Liza Minnelli sta iniziando ad accendere la sua stella, il musicista e compositore John Harold Kander da Kansas City e il paroliere e sceneggiatore newyorkese Fred Ebb uniscono i loro talenti per creare memorabili canzoni. Estrosi, poliedrici e innovativi, scrivono soprattutto musical, ma non disdegnano talvolta di esibirsi sui palcoscenici americani. In questo pezzo li ascoltiamo John al piano, Fred alla voce, accennare All That Jazz, uno dei loro pezzi più famosi tratto dal musical Chicago. Come on babe, why don't we paint the town? And all that jazz, I'm gonna rouge my knees and roll my stockings down. Nel 1965 Liza è reduce dal successo di vendite di Liza Liza, l'album d'esordio che l'ha vista collaborare con l'amico di sempre, Marvin Hamlisch. Marvin ha introdotto la cantante nel giro di Broadway e dei musical, e in particolare l'ha presentata a John Kander e Fred Ebb, un affiatato binomio di compositori alle prese con la realizzazione della loro opera prima a Broadway, Flora and the Red Menace. Flora è un musical di medio livello, ma che già anticipa i contenuti dei futuri e più significativi lavori del duo Kander e Ebb, capolavori del calibro di Cabaret e Chicago. Un'eroina dalla testa dura e una forte dose di contenuti politici. A Quiet Thing è il pezzo più incisivo dell'intero spettacolo. There are no exploding fireworks. Where's the roaring of the crowds? It's the strange new atmosphere way up here among. L'intesa tra i tre è immediata e Liza si getta a capofitto nelle prove. Si impegna e lavora duramente alle prove anche 10 ore al giorno, affinando le tecniche di ballo, lo studio dei testi e delle melodie proposte da John e Fred, costantemente al suo fianco per consigliarla e correggerla. Un affiatamento magico e viscerale, che è ciò che Liza desidera avere nei suoi rapporti di lavoro, per poter dare il meglio, essere amata ancor prima che capita. Il musical apre all'Alvin Theater di Broadway nel maggio del 1965. È replicato per successive 87 performance che valgono a Liza Minnelli la conquista di un Tony Award, l'Oscar delle produzioni teatrali americane. La più giovane vincitrice di sempre fino ad allora. This was truly an honor to be able to present a great American treasure on Broadway, Liza Minnelli. Thank you so much. I can't tell you, this is exquisite. La collaborazione tra Kendra Deb e Liza Minnelli prosegue anche se in forma saltuaria nella seconda metà degli anni 70, producendo materiale per le sue apparizioni live e televisive. Liza alterna l'attività di cantante a quella di attrice in teatro e nel 1969, interpretando il ruolo di Pookie Adams in Pookie di Alan J. Pakula, riceve una nomination agli Oscar a cui fa seguito la vittoria di un David di Donatello come migliore attrice straniera, celebrato nel paese d'origine dei bisnonni. Il passaggio al grande schermo non è un problema per un'artista che fin da bambina si aggirava tra i set del padre e sedeva sulle ginocchia dei più grandi attori degli anni 50. Di fronte alle telecamere si muove con la disinvoltura di una veterana. Ma il film è una commedia, pur evidenziando le sue doti recitative, non mette in risalto quelle canore e coreografiche, fondendo le quali Liza sa dare il meglio di sé. Così, due anni più tardi, quando Kendra e Deb incontrano il regista Bob Fosse per mettere a punto la trasposizione cinematografica di Cabaret, non hanno alcun dubbio su quale attrice affidare il ruolo di Sally Bowles, la vulcanica soubrette del cabaret Kit Kat della Berlino nazista. Money makes the world go around, the world go around, the world go around. Money makes the world go around, it makes the world go round. Quando Fosse e Kendra e Deb riescono finalmente a convincere i dirigenti della ABC Pictures a produrre l'adattamento di Cabaret per il grande schermo, imponendo Liza quale protagonista, i destini di tutti e quattro culminano nella realizzazione di un musical cinematografico tra i più amati di sempre. Diretta da Bob Fosse nei panni della volubile e bellissima Sally Bowles, Liza consacra la sua sexy immagine di ballerina del cabaret in ghepiere e calze a rete, unghie laccate e grandi occhi ammalianti, con lunghissime e seducenti ciglia. Nel gesto di appoggiare il piede destro sulla seggiola, intonando Mein Herr, la Minnelli entra direttamente nell'immaginario collettivo, icona dello show business anni 70. A tiger is a tiger, not a lamb, Mein Herr. You'll never turn the vinegar to jam, Mein Herr. So I do what I do. When I'm through, then I'm through, and I'm through. Toodaloo. Bye, bye, mein lieber. Il ruolo di Sally Bowles vale a Liza un Oscar e un Golden Globe e soprattutto rende celebri canzoni come Cabaret e Money Money, che Liza canta e interpreta in modo unico, facendole proprie al punto da renderle inscindibili dall'interprete stessa. La critica inizia a ricredersi e a riconoscere che Liza sia in possesso di vero talento e che non sia soltanto una viziata figlia d'arte. Il timbro vocale ricorda ancora quello materno, ma lo stile è più vivace, più ritmico, più effervescente. Grazie alla regia moderna e ritmata di Fosse, il film è molto apprezzato anche dai giovani. E così Liza, pur non essendosi mai rivolta direttamente al pubblico del rock, ispira comunque una certa simpatia. Piace a tutti, giovani e meno giovani. Nel discorso di ringraziamento per la vittoria dell'Oscar, emozionata fino alle lacrime, con una vocetta stridula in contrasto con la potenza delle sue performance canore, ringrazia Bob Fosse e soprattutto gli amici che le hanno permesso di arrivare fino a quel punto, John Kander e Fred Ebb. Thank you very much. Making the film of Cabaret was one of the happiest times of my whole life, and I would like to thank everybody connected with it, but most especially the artistic staff, Mr. Fosse, and Fred Ebb and John Kander. And thank you for giving me this award. You've made me very happy. Liza ama dichiarare di sentirsi una donna davvero felice e grata di lavorare con tali artisti e amici, mentre Kendra e Deb ricambiano dichiarando di avere trovato in lei una musa ideale, il perfetto terminale delle loro idee musicali. Per me, Fred, una delle cose più piacevoli del collaborare con Liza è che non devi scrivere necessariamente qualcosa che vada bene per lei. Lei può fare tutto. Tu sai che qualunque cosa metterai sulla carta, lei la interpreterà esattamente come tu la volevi intendere. Lei è davvero la donna dei nostri sogni. I magnifici destini. My little town blues. your thing. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York, New York. Il primo magnifico incontro del destino di Liza Minnelli è stato quello con l'amico di una vita, il compositore Marvin Hamlisch. Marvin, a sua volta, è stato il ponte per l'amicizia e la collaborazione con un duo artistico capace di riscrivere la storia dei musical, John Kander e Fred Ebb. Ora, nel corso degli anni 70, la carriera di Liza, grazie anche alla spinta del clamoroso successo del film Cabaret, corre frenetica sulle note di una nuova canzone di successo, legata alle fortune di un film leggendario, New York, New York, di Martin Scorsese, al fianco di Robert De Niro. La canzone che dà il titolo al film è ancora una volta scritta dagli inseparabili amici John Kander e Fred Ebb. Capito? Ok? No. Cosa c'è? Che cosa vuoi che faccia? Su, cosa? Vuoi che mi uccida per convincerti? Oh. Lo faccio! Guarda! Senta, quando dico ora, faccia marcia indietro! Mi uccido per amore! Jimmy, no! Ecco! Ma che fa? Aspetta un momento, lei non si muova! Non ora! Si muova. No! No! Ora! Non si muova! Non si... Resti lì! Vuoi uscire dalla sotto, per favore? Loro non ci sono abituati, sai? Senti, vieni. Mi vuoi sposare? Ti amo, mi vuoi sposare? Voglio che tu sia mia tutta la vita. Soltanto mia, tesoro, chiaro? Io ho voglia di vivere con te, Francie. Non c'è posto per nessun altro, soltanto per me, perché io ti amo. Nella vita di Liza, oltre a quello virtuale con De Niro, di matrimoni se ne contano quattro. L'ultimo, con il produttore discografico David Jest, dura poco più di un anno e termina con una serie di pesanti accuse reciproche e controversie legali. Ma le difficoltà matrimoniali non sono in realtà l'ultimo e nemmeno il più grave dei suoi problemi. Nonostante la candidatura al Golden Globe per l'interpretazione di Francine Evans in New York, New York, Liza entra in un periodo molto complesso. È l'inizio di una grave dipendenza da alcol e droghe sulla scia dello stesso demone di cui è stata vittima sua madre Judy solo pochi anni prima. I farmaci, l'alcol, la difficoltà a lavorare e una forma fisica sempre meno idonea al palcoscenico la costringono a entrare e uscire dalle cliniche riabilitative e a frequenti cicli di disintossicazione. Beh, in effetti nella mia vita ho davvero pasticciato molto. Però ora ho imparato sulla mia pelle che la dipendenza è una malattia gravissima. Sta lì, nel cervello, cova e poi ti distrugge. Una condizione che mi perseguita fin da bambina, quando la vedevo nelle persone che più amavo. Tutta la mia famiglia c'è nata. Mi sono definita una diva sopravvissuta. Secondo i medici non avrei più potuto cantare e ballare. Una tragedia per una donna che vive di canto e di ballo. Io ho affrontato tutto questo lottando, con semplicità, determinazione. Ogni mattina mi guardavo allo specchio e mi dicevo: ci siamo, andiamo avanti. Complicatissimo. Ma alla fine ho vinto, anche perché ho sempre cercato il lato bello della vita. Non si sopravvive senza il senso dell'umorismo. L'ho capito a 16 anni, quando mi sono dovuta confrontare con il problema di non avere nulla. E mi sono aiutata così, sdrammatizzando. Nonostante la vita e la carriera di Liza sembrino ora pericolosamente ricalcare quelle della madre, in lei la voglia di combattere e l'attaccamento alla vita sono maggiori. Grazie anche all'aiuto di tanti amici. Tra una disintossicazione e l'altra, dal 1982 in poi, riceve una nomination ai Golden Globe per il suo ruolo in Arturo e realizza film per la TV e spettacoli canori e teatrali. Ma è poca cosa rispetto ai tempi di Cabaret e New York, New York. Liza nel frattempo ingrassa, si ritocca qua e là, e pur mantenendo inalterata la potenza della sua voce, vede via via appannarsi la sua stella. Liza sente il bisogno di un cambiamento e non solo nella sua vita privata. Capisce che anche il mondo dello spettacolo è andato avanti, che la musica evolve verso suoni e dimensioni a lei sconosciuti. Sono gli anni 80 e la dance music sta prepotentemente scalando le classifiche di tutto il mondo. Lo sguardo stanco di eccessi e desideroso di rivalsa di Liza si volge oltre oceano, in Inghilterra, dove alla fine degli anni Ottanta un duo di inglesini, forse un poco presuntuosi, pseudo-intellettuali e techno-pop, stanno spopolando. Hanno scelto un nome bizzarro per la loro band, The Pet Shop Boys, letteralmente i ragazzi del negozio di animali. I loro nomi sono Neil Tennant e Chris Lowe, sacerdoti del synth pop, una miscela di musica pop dance elettronica, capaci di vendere in carriera più di 100 milioni di dischi. Fin da quando abbiamo iniziato da ragazzi, di fatto non incidiamo nulla su nastro. Noi siamo una band incentrata sul computer. È così che facciamo la nostra musica. La musica elettronica. È così che noi facciamo i dischi, programmando i computer. Non è assolutamente un segreto. Non ci piace il country, il western, non ci piace la musica rock, non ci piacciono i rockabilly o il rock and roll in particolare. Quello che ci piace davvero lo amiamo appassionatamente. Amare appassionatamente ciò che si fa è forse l'unica cosa che accomuna Liza Minnelli e i Pet Shop Boys. Ma è sufficiente perché le loro strade si incrocino per produrre qualcosa di significativo. Liza ne è assolutamente convinta. Avevo appena cambiato casa discografica ed avevo un provino di una mia canzone. Neil e Chris lo hanno ascoltato e mi hanno proposto di cantare due loro brani. Alla fine è venuto fuori un album tutto stile Pet Shop Boys. Beh, lavorare con i mezzi di oggi, avvicinarsi al pop è stato eccitante, meraviglioso. È stato come fare della musica bellissima con degli scienziati, dei tecnici della IBM. Poi una cantante, se è davvero tale, può cantare di tutto. Certo, magari non la Ida. La Ida forse no, ma la capacità interpretativa di Liza è davvero duttile. E messe da parte le vecchie cover, le canzoni melodiche e l'orchestra d'archi, nel 1989 decide di tuffarsi nel synth pop. Assieme ai Pet Shop Boys incide Results, album che ottiene un enorme successo in Gran Bretagna. Un successo dovuto principalmente al singolo Losing My Mind. La carriera di Liza, dimagrita, disintossicata e piena di rinnovato entusiasmo, è definitivamente ripartita. Liza stima profondamente Neil e Chris. Dichiara di amare da sempre i due ragazzi inglesi, di trovare il loro linguaggio efficace e diretto, simile a quello di Allen Ginsberg, il cantore della Beat Generation, uno dei tanti suoi amici eccellenti. Il loro background artistico va infatti oltre le mere performance artistiche. Neil stava leggendo e io gli ho chiesto quale libro fosse. Erano i sonetti di Shakespeare e lui mi ha detto: prendi quello numero 94, vai in sala e recitalo su una base musicale. E così è venuta fuori Is There Was Love, che abbiamo inciso su Results. Io mi sono innamorata di loro. Mi sono innamorata di loro con una canzone che si intitola I Love You, Pay Me Rent. Ti amo, pagami l'affitto. Ma non è un titolo meraviglioso? Meravigliosa, come sempre, è la voce di una interprete considerata uno dei più grandi animali da palcoscenico di ogni tempo. E nonostante la sua vita sia stata densa di delusioni e dolori, oltre che di straordinario e impagabile successo, ogni volta che Liza sale su un palco, ogni volta che la si rivede in un vecchio film, ogni volta che la sua inimitabile voce giunge alle nostre orecchie, è per regalarci meravigliose e indelebili emozioni.